edizione. E dunque buon martedì ancora da Anna Migliorati, il 14 febbraio, cominciamo subito con prima edizione con la notizia del giorno. Ve l'abbiamo detto, l'agenzia di Moody's ha tagliato ancora il rating dell'Italia, intravedendo addirittura nuovi tagli se la situazione nell'Eurozona non migliorerà e se le riforme messe in campo dal governo Monti non andranno a buon fine. Tagliato nella notte a sorpresa anche il rating di Spagna e Portogallo, previsioni peggiorate per Regno Unito, Francia e Austria, insomma uno scenario che davvero non ci si attendeva e che potrebbe essere un duro colpo. Entriamo subito nel vivo della notizia di oggi andando a New York da Mario Platero. Quello di Moody's è stato un intervento a gamba tesa, la riduzione del rischio Italia da A3 a A2 nel momento in cui i mercati sembravano aver ritrovato un minimo di serenità dopo l'approvazione da parte del Parlamento greco del piano di austerità del governo. Beh, devo dire, ha sorpreso tutti. Pensa, ho fatto una chiacchierata con Vito Tanzi, che è l'ex capo del Dipartimento Fiscale del Fondo Monetario Internazionale, mi ha detto che secondo lui è una follia, farò sentire poi questa intervista più tardi nel corso del programma di America 24. Ebbene, la situazione è una situazione piuttosto strana, perché sembra che Moody's punti più su dati vecchi, su lagging data piuttosto che su leading indicator, cioè su dati che ci danno una componente di proiezione nel futuro, e quindi mi viene fatto di chiedere se questi signori abbiano davvero dei modelli attendibili, perché davvero escono fuori con delle interpretazioni che sembrano, diciamo così, un po' sfasate rispetto a quelli che sono gli sviluppi del momento. Qui abbiamo avuto una visita di Mario Monti, una visita che è andata molto bene col presidente Barack Obama, c'è stato un riconoscimento da parte della Casa Bianca, c'è stato un riconoscimento da parte di Wall Street quando ci sono stati gli incontri sia da Bloomberg che al New York Stock Exchange, insomma una serie di elementi positivi. Ebbene, che cosa dice Moody's? Beh, dice: ma siamo preoccupati dal fatto che non ci siano state ancora le riforme che ci aspettavamo. Beh, ci credo, le riforme sono state annunciate, vanno approvate dal Parlamento, ci vuole un minimo di tempo. Dice Moody's: siamo preoccupati dal fatto che non ci siano forse delle risorse disponibili per far fronte alla crisi. Beh, stiamo parlando del firewall, stiamo parlando del fondo salva stati, che ormai è in fase di definizione. Di nuovo, bastano forse poche settimane perché questa cosa possa partire. Lo spread si era ridotto, dunque non si capisce come mai Moody's intervenga con questo giudizio così duro, non soltanto sull'Italia, anche sulla Spagna, anche sul Portogallo, su Malta, su una serie di altri paesi minori come la Slovacchia e la Slovenia. Invece ha mantenuto il livello del AAA per la Francia, per la Gran Bretagna, per l'Austria, però introducendo un elemento di atteggiamento negativo. Ecco, io sono sorpreso, devo dire, da questo annuncio che è arrivato da Moody's, quantomeno per il tempismo, come dicevo prima. A questo punto si tratterà di vedere come reagiscono i mercati, perché secondo me i mercati dovrebbero dare una prova di maturità e dimostrare in modo palese che queste agenzie per la valutazione del credito, beh, forse non sono poi così attendibili come vogliono far credere. Ecco Mario, il primo indicatore intanto arriva dalle borse asiatiche a quest'ora, alle 6:18 minuti ora italiana, e allora Tokyo resta in territorio positivo, più 0,47%, questo almeno fino ad ora quanto arriva come indicazione dai mercati asiatici. Grazie a Mario Platero. Prima edizione. Allora, la lettura dei quotidiani di questa mattina la cominciamo con il Sole 24 Ore, che in prima pagina un editoriale del direttore Roberto Napoletano, che sembra quanto mai inquadrare la situazione di queste ore anche dopo il declassamento di Moody's. Napoletano scrive un commento dal titolo "Le ragioni dell'economia reale", presentando un nuovo dorso del Sole 24 Ore che sarà in edicola da oggi, dal martedì al venerdì. Si chiama Imprese e Territori e sentite cosa scrive Napoletano. Mercoledì 9 novembre ero nella mia stanza in via Monterosa a Milano e avevo appena finito di scrivere un editoriale di cui avevo già deciso il titolo: fate presto. Quel giorno abbiamo deciso che appena il paese avesse trovato una sua strada per recuperare la credibilità perduta, il Sole 24 Ore avrebbe dovuto reagire alla dittatura dello spread e avrebbe dovuto dare voce a un dorso quotidiano alle ragioni dell'economia reale. Non siamo ancora fuori dalla crisi, perché il cammino è doloroso, denso di insidie, va percorso fino in fondo, ma è sotto gli occhi di tutti che l'esecutivo guidato da Mario Monti sta restituendo reputazione all'Italia. E dunque il Sole 24 Ore oggi presenta un dorso con le ragioni dell'economia reale. Dorso, già vi segnalo, oggi in edicola, l'apertura è stretta sugli impieghi, 25.000 PMI a rischio. Ma al di là di questo, naturalmente è un tema che si inserisce ancor più nel dibattito con la decisione di Moody's questa notte di tagliare ancora il rating dell'Italia. Le altre notizie, quotidiani che aprono praticamente tutti questa mattina sulla storica sentenza arrivata ieri da Torino per quanto riguarda la vicenda Eternit. Cominciamo dalla Stampa, dove l'immagine che campeggia è quella di un ex operaio con la tuta blu in aula che scoppia a piangere. Eternit, condanna storica a 16 anni ai due ex proprietari della fabbrica dell'amianto. E scrive la Stampa, gli imputati però sono fantasma, lo svizzero e il belga mai visti in aula e mai sentiti dai magistrati. Il Messaggero, condannati per l'amianto, c'era chi moriva e ci dicevano di non fumare, così il Messaggero, che riporta anche un focus con la mappa incompleta però del piano di modifica. L'amianto è vietato in Italia dal 1992, scrive il Messaggero, ma 20 anni dopo ancora ci assedia. Secondo una ricerca dell'Istituto Superiore di Sanità ce ne sono circa 5 quintali a testa ancora oggi, individuati 57 siti pericolosi. Corriere della Sera, Eternit, condanna storica, le fibre killer che nessuno ha smaltito. La Repubblica, anche qui, l'amianto uccide, sono colpevoli. Le altre notizie, centro pagina sia per Repubblica che per Corriere della Sera, con la notizia arrivata all'ultimo, vale a dire Moody's, che declassa l'Italia e altri 8 paesi e la Grecia con l'Eurogruppo verso il sì agli aiuti. Ma sul Corriere della Sera c'è anche l'altra notizia di giornata, vale a dire l'Olimpiade, l'ora della decisione con il governo orientato per il no, i dubbi di Monti sull'opportunità alla candidatura per Roma 2020, dubbi ora che diventano ancor più pesanti perché significherà comunque pagare per queste Olimpiadi, i rischi di sforare il budget sono enormi, questi i timori del Presidente del Consiglio. La Repubblica riporta anche quella che è la notizia politica di giornata. Genova, terremoto nel PD, ma Bersani mai più così divisi. Che succede? Che dopo le primarie a Genova si sono dimessi i vertici locali del Partito Democratico. La Vincenzi dice: io sono come i pazzi, e si lamenta. Il termometro e la febbre dell'elettorato di sinistra, il commento oggi sulla Repubblica. Già vi anticipo che parleremo oggi sia di Roma Olimpica, andando proprio conquista, trattando nella capitale più avanti a prima edizione, e invece con Alessandro Milan sentiremo proprio la Vincenzi, i personaggi di giornata, li sentirete questa mattina su Radio 24. Primarie, scossa nel PD, anche il taglio centrale scelto questa mattina dal Messaggero. Bersani dopo Genova vanno ripensate ed è polemica nel partito. Altre due segnalazioni dai quotidiani di questa mattina. Il tempo questa mattina non è moltissimo. Allora, uno dal Corriere della Sera. Casalinghe lavoratrici come le altre. Cos'è successo? Che un giudice ha concesso al marito permessi parentali per accudire la figlia malata, questa nonostante la moglie fosse casalinga, perché le casalinghe sono lavoratrici come tutte le altre, ha detto il giudice. Partendo da questo principio, la donna che si prende cura della casa dei figli è per definizione giuridica una lavoratrice, quindi il marito ha diritto al congedo parentale, così ha deciso il giudice. Un segnale invece che sembra dipingere l'Italia come in risalita, in crescita, è un paese che può farcela, è la storia che riporta oggi la Stampa. Il successo per il volo di collaudo del lanciatore ideato nel nostro paese, il Vega, che ha portato nello spazio, scrive oggi la Stampa, il coraggio italiano. Una volta staccatosi dalla Terra è diventato l'oggetto più denso del sistema solare, una palla, anzi un pallone da spiaggia da 36 centimetri di diametro. Si chiama l'Ares, da ieri è in orbita attorno alla Terra e ce l'ha portato il nostro Vega, il lanciatore italiano europeo. Era la prima volta che il Vega si sollevava da terra, ma si è comportato come un veterano dello spazio. Bravo Vega e bravi quelli che lo hanno pensato, voluto e realizzato. Oggi tutto il mondo giustamente sta parlando del successo italiano, così scrive oggi la Stampa. Prima edizione. Con le inchieste di Radio 24. Italia in controluce. Buona mattina a tutti da Daniele Biacchessi, questo è il primo appuntamento di Italia in conto luce per quest'oggi 14 febbraio. La puntata di oggi è abbastanza speciale perché vi racconta l'evasione fiscale nelle cliniche lombarde, il reportage di Valentina Furlanetto. €1 milione l'anno in nero è quanto si calcola possa aver incassato una clinica privata della Lombardia. Come? Grazie ai ticket, centinaia al giorno, degli esami del sangue pagati in contanti. Ce l'ha raccontato Pietro, un medico che ha lavorato per questa clinica convenzionata e che, scoperta l'evasione fiscale, se n'è andato sbattendo la porta. Il primo anno in cui io ero dentro in questa cosa, c'è stato il consiglio di amministrazione e mi hanno detto: va bene, questi sono i €100.000 per te. E io ho detto: ma scusate, €100.000 per cosa? Per che cosa sono questi soldi? E loro hanno glissato. Allora io ho cominciato a chiedere di avere i resoconti dell'amministrazione, ho cominciato a chiedere e sono cominciati i miei problemi con i soci. Praticamente lì c'è già una doppia cassa, no? Nel momento in cui arriva il paziente con la sua impegnativa, se il paziente paga in contanti, automaticamente va nella cassa del nero. E si tiene la fattura che è stata comunque messa, no? Però è una fattura che alla sera si butta via. Questo discorso vale per il laboratorio analisi ad alto flusso. Il posto dove lavoravo io faceva più esami, appunto, come le dico, dell'ospedale di Monza, come quantitativo di esami. Io in quella struttura avevo stimato che faceva circa €1 milione euro all'anno, in più in nero praticamente, che poi venivano divisi tra i soci. Gli altri non sanno niente, cioè gli infermieri, i medici, tutta la catena non sa niente di questa cosa, perché il paziente arriva con le sue etichette da mettere sulle provette e via che va il discorso. Per cui il personale che deve gestire questa cosa può essere una persona sola, no? All'interno di un front line di 5 o 6 persone gli si dice: va bene, allora quando arrivano i pazienti con queste caratteristiche vanno da questa signorina. Per esempio, dove lavoravo io, diciamo, erano delle persone che erano più facilmente ricattabili, dice, persone che avevano fatto errori, oppure persone che erano state, avevano già ricevuto delle lettere, per esempio, di ammonimento, queste cose qua. Si crea questo doppio filo, nel senso che una persona, se tu parli, poi perdi il posto. Questo meccanismo molto semplice permette, specialmente ai laboratori di analisi ad alto flusso di prestazioni, di incassare contanti che possono raggiungere anche cifre importanti e non pagarci le tasse sul fatturato globale. E la Regione Lombardia? Tutto sommato un meccanismo di comodo anche per Regione Lombardia, che riduce i suoi rimborsi in qualche modo. È una regione che si è esposta fortemente sul discorso del privato, no? Perché in tutta Italia è la capofila, perché Formigoni ha sempre spinto su questo discorso di concorrenza tra pubblico e privato, che ha dato anche dei risultati positivi sicuramente, perché ha sveltito il pubblico, no? D'altra parte anche il privato ha trovato le sue forme di compensazione, lo sappiamo tutti, le cifre che girano. Com'è che queste strutture private hanno questi utili così grandi mentre il pubblico è sempre in deficit? Come si potrebbero bloccare questi meccanismi che, secondo il nostro amico Pietro, potrebbero essere in atto anche in altre cliniche convenzionate? Se la finanza volesse, cosa potrebbe fare? Potrebbe mandare delle persone a fare degli esami, farsi fare la ricevuta e il giorno dopo ritornare e dire: signore, fatemi vedere la vostra, la matrice, e la matrice non c'è più. Se poi ci fosse l'obbligo del pagamento in contanti, queste truffe sarebbero davvero molto più difficili. Torniamo oggi alle 13.30 con una nuova edizione di Italia in conto luce su Radio 24. Ecco il cinetoforo porgere il fuoco alla grande accogliente coppa. Ecco alla base il cinque che i topi di Roma vivono. La fiamma splende verso il cielo perso di Roma, mentre e questo era il 1960. Rivedremo le Olimpiadi a Roma. Roma sarà candidata nel 2020 ancora. Buon martedì da Anna Migliorati, seconda parte di prima edizione. L'apriamo così perché andiamo a Roma oggi. È l'ultimo giorno per decidere se candidare Roma alle Olimpiadi. È l'ora della decisione tra i dubbi del Premier Monti per i costi e gli incerti benefici. E l'attenzione attesa della capitale, ma non solo. C'è anche un giallo in queste ore, perché ieri il sindaco di Roma Alemanno ha annunciato un incontro per oggi con Monti. Palazzo Chigi però dice che in agenda non c'è. Allora, che succede? Io saluto Antonio Gazzellone, delegato al turismo di Roma Capitale del sindaco Alemanno. Buongiorno, benvenuto. Buongiorno a tutti voi, buongiorno. Cominciamo dalla notizia proprio di queste ore innanzitutto. Ci sarà o no l'incontro, Gazzellone? Ma io mi auguro di sì, insomma è evidente che una decisione del genere, per le ripercussioni che avrà non solo per Roma ma per tutto il paese, non può che essere coronata sia in un senso che nell'altro da un incontro fra il primo cittadino e il Presidente del Consiglio. Ma è vero che ve l'avevano promesso da Palazzo Chigi o no? Ma guardi, questo sta alle cose all'agenda e agli interventi e ai colloqui avuti dal sindaco. Contatti ce ne sono stati un'infinità anche con il sottosegretario alla presidenza, credo che Catricalà sicuramente si siano sentiti ed è chiaro, ripeto, naturale che il primo cittadino possa immaginare di incontrare il primo ministro su una vicenda come questa che impegna ed espone tutto il paese per un evento così importante. Sarei stupito del contrario, se avvenisse magari per lettera protocollare. Quindi lei dice, sarei stupito se arrivasse semplicemente una lettera con un sì o con un no e non ci vedessimo. Beh, penso proprio di sì. Non è un fatto privato, è l'immagine dell'Italia in gioco oggi. E siamo veramente alle ultimissime ore, perché Tokyo ha già presentato la sua candidatura, manca pochissimo. Vi stupisce il fatto che prima ancora del CIO dovete convincere l'Italia? No, penso che sia naturale che un nuovo governo che si insedia e che trova in un'agenda moltissimi appuntamenti rifletta e voglio essere certo di una cosa così importante. Sono convinto che è talmente serio il lavoro fatto che poi il risultato non potrà che essere quello di avere una candidatura per l'Italia, che vorrebbe dire dal 2015 al 2025 una grande esposizione per il paese, e sappiamo quanto questo conta in termini di pubblicità territoriale, di marketing territoriale, in termini di ritorno per quello che riguarda il turismo, per esempio. E grande esposizione anche dal punto di vista dei costi, però, perché un'Olimpiade costa e costa tanto. Allora io le faccio la domanda che dovrebbe farle o che vi sta facendo Monti in questo momento: per quale motivo siete convinti che non sforerete il budget? Ma un po' perché, ripeto, la maggior parte degli impianti sono già pronti, perché l'importanza delle opere infrastrutturali previste sono opere che non servono soltanto, non serviranno, ci auguriamo, soltanto per il 2020, ma ricordiamo che 5 anni dopo arriverà il giubileo del 2025 e ci troveremo con gli stessi impegni da dover affrontare, a meno che non chiederemo alla Santo Padre di spostare il giubileo da un'altra parte, perché comunque l'aeroporto di Fiumicino dovremmo adeguarlo, le infrastrutture previste per le Olimpiadi dovremmo farle, come io ricordo la grande trasformazione che la città ebbe nel 2000 con il grande giubileo. Tra 13 anni, nel 2025, avremo un'altra grande occasione. Allora mi chiedo, non siamo pronti oggi, saremo pronti per il 2025 e chiederemo al Santo Padre di spostare il giubileo da un'altra parte? Quindi lei dice, tanto dovremmo farli lo stesso con gli investimenti. Io credo che noi saremo... Sì, no, dicevo, perché con i mondiali di nuoto non è andata benissimo e la magistratura è all'azione. Con Italia 90 non è andata benissimo. Però mi perdoni, i mondiali di nuoto non è vero che non sono andati bene. Ci sono dei problemi. Ci sono stati dei problemi e delle inchieste. Mi perdoni, e la magistratura farà il suo corso e aspettiamo tutti con ansia il risultato. Dopodiché però non mi venga a dire che il mondiale di nuoto non ha avuto il suo effetto. Sono stati i più grandi mondiali di nuoto riconosciuti a livello internazionale. Hanno avuto un grandissimo ritorno di immagine per la città, per l'organizzazione, per il movimento di persone che ci ha lavorato e si è impegnate, per gli sportivi che sono venuti. Sono ricordate come un grandissimo evento sportivo di grandissima capacità organizzativa e d'accoglienza. Dopodiché sicuramente dal punto di vista delle procedure e per i risultati che ancora abbiamo, visto che abbiamo diversi, come dire, relitti in giro per la città che devono essere sistemati, a questo però mi verrebbe una domanda: come mai ci mettiamo tanti anni per arrivare a capire chi, se e chi ha delle responsabilità? E cosa è successo? Quindi questo non mi venite a dire che è colpa della città o che è colpa del movimento sportivo. Avete un'ultima carta da giocare con Monti? No, io credo che il Presidente Monti abbia veramente davanti, dopo il dossier e l'analisi costi-benefici prodotta dalla Commissione Fortis, penso che tra quello, tra la serietà con cui, ripeto, è stata predisposta e immaginata la candidatura, fra tutto quello che si è detto e scritto da parte sia del mondo produttivo, delle categorie professionali, del mondo sportivo, del mondo della cultura, del mondo del lavoro, i cittadini con i sondaggi che hanno 7 su 10 si dicono propensi all'organizzazione delle Olimpiadi, io penso che il Presidente abbia veramente davanti un quadro molto chiaro. Un'ultima secca domanda, si aspetta un sì o un no? Ma guardi, da romano, da italiano e da amministratore, nonché da sportivo, io mi aspetto un sì, perché Roma e l'Italia si meritano una grande occasione per ripartire. Sarebbe il primo vero, la prima vera scommessa, la prima possibilità anticiclica che ci consente veramente di partire con un rilancio del paese e della città. Un obiettivo da raggiungere. Nel 2020 saremo in grado di fare le Olimpiadi. Vedremo che deciderà Palazzo Chigi. Grazie intanto ad Antonio Gazzellone, delegato al turismo Roma Capitale del sindaco Alemanno, e vedremo anche se oggi ci sarà l'atteso incontro a Palazzo Chigi. Grazie intanto per essere stato con noi. Buona giornata. Grazie a voi, buongiorno. La situazione sulle strade. Io prima però saluto il prossimo ospite già pronto con noi, il colonnello Mario Giuliacci. Buongiorno. Sì, buongiorno. Prima edizione. Colonnello Giuliacci, buongiorno. Sì, buongiorno. Previsioni, quanto se ne parla in questi giorni? Avete sbagliato o no? Ci sveli questo mistero. Le avete sbagliate queste previsioni su questo grande freddo, ma ancor più sulla neve? Ma no, guarda, io ricordo addirittura con una settimana d'anticipo deve arriva il grande freddo e il grande gelo, cioè sull'arrivo di questo grande... Forse ci siamo fraintesi sul grande. Beh sì, fraintesi, insomma, arrivava la prima vera ondata di freddo invernale, poi sull'entità, se, certo che avesse fatto tutta questa neve non era stata messa in conto da nessuno, no? Questo è ovvio, anche perché le nevicate si sono succedute su quelle regioni che sono state particolarmente tramortite dall'evento, come la Romagna, le Marche, l'Abruzzo, ha nevicato per 7-8 giorni continui. Ecco, queste cose si possono prevedere, cioè voi prevedete che arrivi la neve, ma si può prevedere quanta? Il quanta sì, diciamo, ma con molta approssimazione, no? Diciamo, quello che è stato sottovalutato forse da noi meteorologi, il fatto che queste nevicate sarebbero avvenute tutti i giorni, quindi anche se in un giorno faceva solo 20 centimetri, moltiplicate 7 giorni fanno, cioè, 1,5 metri, no? Voglio dire, quindi alla fine è la eccezionalità dell'evento intesa come persistenza del fenomeno delle nevicate. Colonnello Giuliacci, si dice che dovremmo abituarci ad eventi eccezionali sempre più spesso, lei è d'accordo? Ma per quanto riguarda direi questi eventi invernali, beh, era da 30 anni che non avveniva un evento simile, per cui dire che ci dobbiamo abituare, forse è meglio dire che le dobbiamo ogni tanto subire, no? È così. Perché non credo che ci si possa attrezzare contro eventi così eccezionali. Di fronte a un evento di tale natura anche la protezione civile ha dovuto dire mi arrendo, perché cosa si può fare per raggiungere per esempio i casolari dove ci sono 3 metri e va bene, ci ha convinto, va bene, queste erano tutte le previsioni che potevamo fare, però non potevamo non parlarne con il colonnello Giuliacci a chiusura di una settimana in cui vi abbiamo raccontato le difficoltà di tutti i sindaci italiani, e magari lo rifaremo anche nelle prossime mattine. Grazie al colonnello Giuliacci. Perché abbiamo ancora pochi minuti, ma incombono anche le notizie di queste ore. Ve l'abbiamo detto con prima edizione alle 6 di questa mattina. Nella notte Moody's ha tagliato ancora il rating dell'Italia, anche quello di Spagna e Portogallo. Una decisione in attesa. Forse anche questa è una previsione sbagliata. Io saluto il nostro direttore, il direttore di Radio 24, Fabio Tamburini. Buongiorno direttore. Buongiorno a tutti. Allora, sentivamo Giuliacci di previsioni che forse sì, insomma, così gravi, non avevano dipinto forse il quadro esatto. Beh, Moody's, secondo te questa decisione è piovuta dal nulla o cosa ne pensi? Io credo che stiano prendendo una cantonata, ma va detto con forza che le agenzie di Moody's, le agenzie di rating Moody's, ma anche Standard & Poor's e Fitch, no, hanno degli interessi di parte. È in corso ormai da qualche mese un attacco contro l'euro e contro i paesi europei, e le agenzie di rating stanno giocando di sponda. da sempre sui mercati finanziari si confrontano rialzisti e ribassisti, è in corso un attacco speculativo, le agenzie di rating non sono al di sopra da ogni sospetto e questo giudizio di Moody's nella notte lo conferma, è l'ennesima conferma. Direttore, tra l'altro aggiungiamo prima di chiudere che nel frattempo però i mercati sembrano non aver del tutto recepito tutto questo, perché Tokyo continua a guadagnare, ancora in salita, più 0,6% in questo momento. Certo, ormai il gioco è scoperto, tutti hanno capito che le agenzie di rating non sono al di sopra da ogni sospetto, hanno come azionisti degli investitori internazionali che sono impegnati in una partita speculativa contro l'euro e contro i paesi europei. Ormai è chiaro e quindi i mercati non recepiscono questi interventi. E hanno fatto i loro conti. Grazie anche al direttore di Radio 24 Fabio Tamburini, grazie per essere stato con noi questa mattina eccezionalmente prima edizione, però tra pochissimo ci aspetta GR24 ancora con tutti gli ultimi aggiornamenti e le ultime novità. Grazie anche a Peter Bescapè e Viola Bottoni che restano con noi, Danna Migliorati ancora buon martedì, ci risentiamo tra poco.